Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera. E ciao Simona. Ciao Federico, ciao Chiara. Ciao Simona. E perché qua Simona? Perché si è verificato un fatto tecnico che per descrivervi devo dire come noi andiamo in onda. Allora, abbiamo davanti il microfono, questo sì, non è sorprendente. Questo, certo. Poi siamo sempre dietro un vetro e di là adesso c'è Paolo Colleoni in regia. C'è il nostro tecnico regista. Il nostro tecnico regista. Però sotto il microfono noi abbiamo un tavolo. Sì. Dove mettiamo tutte le nostre cartacce, appunti per seguire la trasmissione, i numeri di telefono, le cose che dobbiamo dire. Ebbene, a un certo momento Chiara Albicocco non riusciva a leggere gli appunti. No. Perché c'ha un pancione che li copre. Mi copre, sì. E quindi non può più per un po' stare. Questa è qui la sorpresa della nostra prima puntata dell'anno. Se non fosse così l'avremmo potuto continuare, invece no, c'è un pancione. Mi devo fermare, sì, mi devo fermare per un bel evento, quindi sono contenta, mi dispiace un po' lasciarvi, ma vi lascio in buone mani, nel senso che qui con noi c'è Simona Regina, che adesso ti facciamo presentare un po' Simo. È perché vado in maternità, ragazzi. Dai, in maternità. Dai, su, è una bella cosa. Quindi questa puntata del 2017 ci vede, siamo tre e mezzo. Sì, siamo tre e mezzo, esatto. Ah, non quattro? È una puntata, facciamo quattro, insomma. Ah, io perché direi quattro. Il mezzo è piccolino, ecco. Allora, Simona, intanto facciamo una cosa. Facciamo presentare un attimo Simona. Simona, giornalista di scienza, hai Dai, fatto una e fai radio, no? Sì, ho lavorato con Radio Rai del Friuli Venezia Giulia perché vivo a Trieste. Trieste. E, insomma, scrivo, parlo, leggo, racconto cose. E per questi mesi verrai qua a Milano, alla sede del Sole 24 Ore, per far compagnia a Federico. Quindi ti lascio in buone mani, Fede. Sì, ma poi tu resti sullo sì, sfondo. Sì, ma poi vengo a trovarvi, ragazzi. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Questa puntata l'abbiamo decisa così, un po' speciale, perché è la prima puntata dell'anno, perché siamo in tanti in questo studio. Ed è dedicata a te. E me la dedicate. Infatti esatto. Ci sono anche delle sorprese, proprio da queste iniziamo così Federico. Cominciamo dalla Quaticità, anche perché potremmo avere l'opportunità di avere un primo corrispondente subacqueo. Esatto, potrebbe in essere il Mebius l'unico ad averlo. Che dalla pancia ci porta alla piscina. Esatto, e poi invece proseguiamo un po' con l'evoluzione della specie umana, perché dai neonati e dai bambini passiamo agli adolescenti e parliamo di quali sono gli strumenti per contrastare il cyberbullismo. Coinvolgendo i giovanissimi e infine quando i giovanissimi fanno aziende. E per aiutarci in questa descrizione della quanticità, ma all'origine, nel panzone, abbiamo qui questa sera Nadia Carollo. Buonasera Nadia. Buonasera. Benvenuta. Buonasera Nadia. Grazie, buonasera. Del centro di formazione Bimbi Più, che opera a Bassano del Grappa, è un gruppo di lavoro con insegnanti di educazione fisica, con psicologhe, ostetriche, insomma, e voi vi interessate della acquaticità. Vogliamo partire dall'acquaticità di base, quella nella pancia? Cioè, quella di questo momento. Sono molto interessata, Federico mi ha fatto questa sorpresa e quindi sono tutta orecchie. Cioè, lì dentro c'è acqua anche, è tutto circondato di acqua, il pupone. Il bambino è proprio avvolto, massaggiato, coccolato dal liquido amniotico che è a temperatura proprio corporea, che oltre a proteggerlo dagli urti, da tutto quello che c'è di esterno, fa anche da filtro per quanto riguarda i rumori, per quanto riguarda le vibrazioni che provengono anche dall'esterno, per cui il bambino percepisce tutto filtrato proprio da questo elemento d'acqua che lo avvolge e lo culla costantemente. Ma l'acqua nei polmoni? No, anche perché i polmoni durante la gravidanza sono praticamente collassati e si attiveranno veramente solo col primo atto respiratorio. Sono dopo dei la palloncini nascita. Sgonfi praticamente. Praticamente, sì. E invece però l'ossigeno lo riceve tramite il cordone ombelicale, che regola proprio l'equilibrio tra anidride carbonica e ossigeno, per cui c'è tutto questa perfezione dove la madre fornisce tutto quello che è necessario al bambino. Ma quindi tornando all'acquaticità, cioè l'acqua è l'ambiente naturale, il nostro ambiente naturale. Esatto, sì, è proprio la culla dei suoi 9 mesi. Ma l'acqua la manda però giù in qualche modo? Sì, diciamo che il bambino ogni tanto, anche per allenare proprio anche l'apparato digerente, deglutisce il liquido amniotico e poi lo espelle nuovamente tramite l'urina, per cui c'è questo circolo e questo passaggio. In realtà le sostanze nutritive lui le riceve sempre tramite il cordone ombelicale, però lui comunque continua ad assaggiare questo liquido amniotico, e la cosa sorprendente è che quando la mamma prende cibi, ad esempio particolarmente zuccherati, il bambino aumenta la deglutizione, cioè gradisce questi cibi. Viceversa, quando ci sono dei gusti meno graditi, lui rallenta le deglutizioni. Ecco, poi una volta fuori dalla pancia, diciamo che ovviamente tutto il contorno acquatico lo perde, perché si trova immerso nell'aria e non nell'acqua, però appunto voi con Bimbi Più fate dei corsi per riacquisire un po' questa acquaticità. Certo, per mantenerla. Ecco, per mantenerla, questo è l'aspetto singolare. Sì, perché più si intraprende l'esperienza acquatica dopo la nascita e più facile è per il bambino provare piacere per questo ambiente, anche perché molti bambini mantengono anche per i primi mesi di vita il riflesso d'apnea, questo diving reflex, che proprio fa sì che quando il bambino appoggia il viso nell'acqua, viene a contatto proprio con l'acqua, va in apnea, per cui anche dovesse per qualche secondo stare a contatto con l'acqua, non arriva alle sue vie respiratorie. Quindi è più un timore dei genitori il fatto di vedere il proprio figlio o la propria figlia finire con la testa sott'acqua. Sì, beh, diciamo che è una preoccupazione adeguata, anche perché non tutti i bambini mantengono a lungo questo riflesso. Lavoriamo con i bambini a partire dai 3-4 mesi, addirittura anche più piccoli, con l'esperienza nel dopo parto. Ah, subito si può, diciamo, approcciarsi a questi corsi, subito dopo il parto? Allora, diciamo che noi aspettiamo i classici 40 giorni. Il problema non è portare il bambino in acqua precocemente, ma è rispettare i suoi ritmi. Nel senso che il bambino quando ha fame ha bisogno di mangiare, quando dorme non può fare altro, non ha un'elasticità per cui se lo si porta in piscina lo si può svegliare, perché rischierebbe di vivere male l'esperienza acquatica proprio per il sopravvenire di bisogni che lui ha bisogno di soddisfare immediatamente. Senta Nadia, ma è vero che a pochi mesi, se li lasciamo, loro sono in grado di nuotare nell'acqua e addirittura da tirarsi su da soli dalla piscina? Fino a poco tempo, pochi anni fa, sembrava che solo verso i 3, 4, 5 anni un bambino fosse in grado di uscire da solo dall'acqua, perché solo in quel periodo teoricamente poteva sviluppare forza e coordinazione. Quindi uscire volontariamente dalla vasca, esatto, giusto? Esatto, essere in grado, quindi anche in caso di caduta accidentale, di uscire. In realtà noi abbiamo visto, e ci stupiamo sempre di più, delle capacità di questi bambini che, se ben coinvolti, motivati, fatti divertire e soprattutto con una didattica adeguata, sono in grado già a 14, 16, 18 mesi di vita di emergere da soli per respirare e anche di raggiungere il bordo autonomamente e di uscire da soli dall'acqua, di far uscire bocca-naso per respirare e poi proseguire con l'apnea. Bene, ok. Allora, dove possiamo trovare informazioni? Com'è il sito? www.bimbipiu.it. Perfetto. E ci sono un po' dappertutto questi corsi? Voi date indicazioni su dove poterli trovare? Ci sono diverse scuole di formazione e diverse proposte. Poi starà ai genitori valutare quella più appropriata. Va bene. Bene, Nadia Carollo, la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buona serata. Voi. Perfetto, buon proseguimento e buona serata a tutti voi. Arrivederci. E noi ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico e poi ci evolviamo, andiamo verso l'adolescenza. Esatto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come vi abbiamo detto all'inizio, questa puntata segue l'evoluzione umana. Siamo arrivati agli adolescenti, 14, 15, 16 anni, e parliamo di questi adolescenti e di un bel problemone che è il cyberbullismo con Claudio Canavese. Buonasera Claudio. Buonasera. Buonasera. Buonasera Claudio. Fondatore di Zanshin Tech. E che cos'è questa cosa? Ci arriviamo però alla fine. È un'associazione che ha attività sul fronte sociale. E cosa fate? Addestrate dei giovanissimi a combattere il cyberbullismo. Esattamente. Lo Zanshin Tech è un'arte marziale digitale. quindi porta ciò che sono i concetti fondamentali delle arti marziali e la preparazione mentale delle arti marziali nel conflitto digitale. E cos'è che succede? Cioè cosa fate? Prendete... Non è che uno spacca il computer in due, ce lo deve spiegare. Sarebbe no, certamente... Il conflitto digitale ha delle regole sue che sono assolutamente uniche e particolari. Noi studiamo il conflitto digitale, lo abbiamo studiato analizzando decine e decine di casi di cyberbullismo, di adescamento, di cyberstalking, casi che riguardavano sia i ragazzi che gli adulti. Abbiamo identificato le tecniche di attacco. Dopodiché abbiamo elaborato delle contromosse basandosi un po' su quelle che sono gli insegnamenti tradizionali delle arti marziali, quindi dare il benvenuto al proprio aggressore, riuscire a gestirlo, portarlo dove non può nuocere né a se stesso né a me e quindi lasciarlo andare. E in parte studiando dei casi che invece si sono risolti da soli in maniera ottima, perché comunque i ragazzi sono riusciti a mettere in atto delle tecniche che funzionano. Ma Canavese, per capire un po' meglio, un ragazzino, una ragazzina cosa deve fare per difendersi e per vigilare casi di cyberbullismo? Innanzitutto deve cambiare se stesso o se stessa, il modo in cui pensa a sé. Non deve pensare a se stessa come a vittima, ma come a un semplice bersaglio di un'aggressione. Dopodiché deve mantenere il controllo e poi deve imparare a utilizzare la tecnologia prima e meglio di chi può fare del male. Deve riuscire ad esempio a identificare la persona che si nasconde dietro un numero di cellulare, tracciandolo all'indietro scoprendo chi possiede quel cellulare, o essere in grado di analizzare il profilo di un nuovo contatto per capire se è un profilo fasullo oppure no. E poi deve saper gestire il suo aggressore, quindi portarlo dove lei lo può controllare, nel caso saperlo allontanare sempre con rispetto, perché noi rispettiamo il nostro aggressore, quindi non vogliamo danneggiarlo in alcun modo. Ecco Canavese, se abbiamo capito bene, voi fornite degli strumenti di difesa per cui gli studenti, gli adolescenti sono praticamente protagonisti nel fare, nel difendersi. Esattamente, questa è un'arte marziale. L'arte marziale è un percorso personale di difesa, ma anche proprio di autocontrollo e di autodisciplina. Ovviamente tra le varie tecniche di difesa c'è anche la denuncia alle autorità. Ci sono dei casi in cui è necessario farlo e bisogna farlo in un certo modo, bisogna farlo bene, bisogna raccogliere le prove in un certo modo e i ragazzi, i nostri ragazzi sanno esattamente come fare in questi casi. Ma loro sono anche addestrati a dare una mano ad altri che sono oggetto di cyberbullismo, se non sbaglio, no? Certamente, perché il guerriero digitale, colui che pratica Zanshin Tech, ha un codice d'onore. La prima regola in assoluto è non attaccare, non userai mai ciò che ti insegniamo per fare del male, ma tra le varie regole del codice d'onore c'è anche il vigilare sugli altri e quindi il poter aiutare le altre persone, i miei amici, i miei compagni di scuola, che potrebbero avere un attacco di cyberbullismo in corso o anche altri tipi di attacchi digitali. Attualmente dove sono attivi questi corsi di difesa personale dal cyberbullismo? Sono attivi a Genova, ci sono 4 corsi, 3 per ragazzi e 1 per adulti. Ecco, quando dice ragazzi, che età più o meno? Dagli 11 in su, quindi abbiamo a Genova 3 corsi per ragazzi dagli 11 in su e un corso adulti e poi abbiamo un corso ragazzi a Pavia. Ecco, e lei dice giustamente a Genova perché lei è basato a Genova, ma si sta creando una rete nazionale per cui si sta un po' diffondendo nelle principali città. Assolutamente sì, abbiamo più di 20 città in Italia, la maggior parte dei capoluoghi stanno aprendo palestre di Zanshin Tech. Lei dice palestre, infatti da come ci ha spiegato le regole sono proprio quelle delle arti marziali, però in realtà voi siete anche istruttori di arti marziali vere, insomma, quindi unite diciamo le due cose, questa è un po' la vostra peculiarità. Esattamente, alcuni di noi sono stati istruttori di arti marziali. Va detto che l'arte marziale non è tirare pugno calci, l'arte marziale è autocontrollo, disciplina e gentilezza riconoscente, sono i 3 grandi pilastri dell'arte marziale. Però vedendo un esempio concreto, che cosa significa incominciare ad accorgersi che è in corso un percorso che poi fa nascere un'azione di cyberbullismo? Cos'è che devono intuire questi vostri allievi e allieve? Ecco, questo è importantissimo. L'aggressione digitale ha delle regole sue, non è come nell'aggressione fisica in cui mi rendo conto quando sono sotto attacco perché qualcuno mi mette le mani addosso. L'aggressione digitale inizia prima. C'è tutta una fase preliminare in cui il mio aggressore mi studia, si finge magari qualcun altro, quindi protegge la sua identità con una falsa identità, non sempre, ma la maggior parte delle volte è così, poi mi fa parlare, mi seduce, entra nelle nella mia sfera di persone di fiducia, dopodiché raccoglie informazioni su di me, foto, anche foto e filmati sono informazioni, qualunque tipo di dato che possa essere usato poi nella fase vera e propria di attacco per farmi del male. Riuscire a riconoscere un'aggressione in fase preliminare, quindi riuscire a riconoscere che sto parlando con una falsa identità o che sto cadendo nella rete della seduzione o che la persona con cui sto parlando sta eseguendo una raccolta di informazioni su di me, permette di fermare l'aggressione prima che diventi violenta, digitalmente parlando, e permette di fermare l'aggressione in modo che né io né il mio aggressore ne verremo danneggiati. Quindi è il modo migliore per vincere, perché è vincere senza estrarre la spada dal fodero. Non si fa del male neanche al proprio aggressore. Ecco, se qualcuno all'ascolto fosse interessato a contattarvi e insomma poi a iscriversi ai corsi, intanto i corsi sono sia post, diciamo post scuola, durante il pomeriggio, li fate anche nelle scuole, come possono contattarvi? Noi siamo fuori della scuola, anche perché all'interno di una classe scolastica ci sono delle dinamiche troppo forti che danneggerebbero in un certo senso l'insegnamento. Quindi la nostra è un'arte marziale che viene insegnata separatamente, di solito al pomeriggio o alla sera per quello che riguarda gli adulti. Chiunque è interessato può scrivere a dojo@zanshintech.it o andare sul sito zanshintech.it o cercare semplicemente arte marziale digitale. Siamo gli unici al mondo, quindi trovate tutto. Allora, forse Canavese, forse allora facciamo così, la mail ovviamente la trovano sul sito, facilmente trovano su Google se viene digitato Zanshintech, che forse è meglio fare lo spelling, se siete d'accordo. Z di Zara, A di Ancona, N di Napoli, S di Savona, H di Hotel, I di Imola, N di Napoli, poi staccato tech come tecnica, TECH. E comunque rimandiamo al nostro blog, dove metteremo tutte le indicazioni. Grazie Canavese. Buon lavoro. Buonasera. Arrivederci. Ultimo step, allora, quando sono un po' più grandi e ragazzi e ragazze ormai cresciute iniziano a creare innovazione, a creare startup. Fondazione Bracco di Milano ha aperto un bando, ha lanciato un bando ad aprile del 2015 sul tema economia circolare, un bando ambizioso, nel senso che si rivolgeva, beh, intanto comincio a presentarvi, ho qui con me Gaela Bernini, buonasera Gaela. Buonasera. Che è responsabile dell'area progetti scientifici della Fondazione Bracco. Allora, era rivolto a giovani questo bando? Certo, a giovani aspiranti imprenditori o da start-up costituite da meno di 20 mesi alla data di pubblicazione del bando. Allora, stavo dicendo, è ambizioso perché il tema economia circolare e quindi dare progetti in questa direzione, beh, insomma, non è assolutamente dei più banali. La chiamata si è chiusa poi dopo l'estate, avete fatto un lavoro di recensione, quanti ne sono arrivate di proposte? 51 progetti. Di uno in particolare ne abbiamo già parlato qui a Mebius, era un progetto piuttosto originale che riguardava delle culture idroponiche, ma però messe sul tetto dei supermercati, in modo da costruire una relazione locale, sociale piuttosto bella, perché poi la gente poteva andare lì e prendersi direttamente, come se entrasse in un campo, queste culture, i vegetali. Però Gaela, noi ci stiamo sentendo per un'altra domanda, e cioè questa sfida appunto su il tema economia circolare. Come è andata? Cioè, in generale siete abbastanza soddisfatti? Il tema era difficile? Ci descrivo un po' le difficoltà più che le cose buone che senz'altro ci sono state. Allora, essendo il primo bando per startup sull'economia, impegnate nell'economia circolare in Italia, abbiamo visto che l'interesse è forte, perché senza promuoverlo, ma solo aprendo il bando, annunciandolo, 51 idee di impresa sono un buon risultato. Sì. I temi e i progetti erano, diciamo, circolari, cioè promuovevano il riuso, il ricircolo, il riutilizzo, però i promotori a volte avevano un'insufficiente consapevolezza di quelli che sono i principi alla base dell'economia circolare, quindi questo è un tema sul quale va fatta ancora divulgazione nel nostro paese. E poi erano delle idee molto delle start-up early stage, quindi all'inizio della loro attività, ancora un modello di business da affinare sotto alcuni aspetti, ma per fortuna noi avevamo già previsto di incubarli all'interno di Speed Me Up di Bocconi, dell'Università Bocconi di Milano e di Camera di Commercio, quindi un anno di incubazione aiuterà ad affinare queste idee di impresa affinché questi giovani divengano veramente degli imprenditori. Cioè quello che voi avete notato è che su alcuni aspetti, concetti di base del fare impresa sono un po' sprovveduti, però le chiedo, è un giudizio che in qualche modo non tiene conto del fatto che comunque sono giovanissimi, quindi non necessariamente devono sapere già cose di impresa, oppure secondo lei, secondo voi, no, dovrebbero essere già un po' più avanti? Diciamo che noi abbiamo notato che faticano a comprendere quelli che sono due aspetti. Il primo è le informazioni che ha bisogno un investitore. Una startup per crescere ha bisogno di capitale di rischio e quindi devono essere capaci di dare alcuni tipi di informazioni per chi vuole investire. Noi abbiamo comunque come partner Oltre Venture che li aiuterà poi nel costruire e nel rinforzare questa capacità. Dall'altra è proprio sul modello di business, cioè capire cosa vuol dire fare impresa, come ci si differenzia dai competitor, non solo nell'idea, ma sapendola anche sviluppare e cambiando anche un po' alcuni assunti che di cui ci si innamora all'inizio, ma che bisogna saper rivedere nello sviluppo. Quindi noi abbiamo premiato il rigore, ma dall'altra parte a volte business plan, quindi il rigore nel redigere un business plan, anche se poi magari non erano proprio perfettissimi, ma non importa, ecco, non era quello, ma era più il rigore logico. Il rigore logico. Sì. Vabbè, poi diciamo questa vostra anche analisi critica si accompagna con il fatto che invece li assistete, quindi gli fate formazione, non è che gli dite vai via, non farti più vedere. Ecco, un anno intero, a partire da gennaio, e quindi noi siamo al loro fianco. Benissimo. Ci sarà un altro bando, prevedete, sempre circolare o no? Certamente sì, andiamo avanti, stiamo raffinando come farlo, certamente l'esperienza di quest'anno ci ha insegnato alcune cose che noi metteremo a patrimonio. Date di partenza non ce ne sono ancora? No, non ancora, diciamo in genere intorno a marzo del 2017. Grazie Chiara Bernini, buona serata. Grazie, grazie a te, a presto. Chiara. Acipicchia, finisce qua. Ecco, sono sensibile, quindi facciamo veloce, non fatemi commuovere. Non vuoi piangere? No. Allora, questa è l'ultima puntata per questo periodo. Via, vi lascio in buone mani, Federico e Simona, mi raccomando, in bocca al lupo. In bocca al lupo a te e a sabato prossimo a tutti e tutte voi che siete in ascolto. Ciao.